Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suardi, ciao. Ciao Carlo, buongiorno, buongiorno per a tutti. Per la prima volta dopo 10 anni, dunque adesso facciamo una fotografia che è quanto mai in bianco e nero del basket italiano. Per la prima volta dopo 10 anni, negli ultimi 10 anni, solo una squadra alle top 16. Solo Treviso è rimasto invitato in Eurocup. La situazione della nazionale, vabbè, la conoscete, in attesa della bacchetta magica di Simone Pianigiani. Fotografia in bianco e nero. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao ragazzi, amici sportivi, ciao, buonasera a tutti. Coach, per Sport Italia hai commentato Siena, grande partita quella di ieri, tra poco ne parliamo, hai commentato Milano, non hai commentato Roma per tua fortuna, che è stata una partita orrenda per la verità. La mia idea è che Roma ha buttato via la qualificazione, mi sembra buttata via per mezzo canestro, per quella partita disgraziata col Marussi, eccetera. Io ti dico la verità, considero più preoccupante la situazione di Milano, perché stagione grigissima in Europa quella milanese, due vittorie col Bamberg, una con il Procom, tante mezze partite, mai una grande partita. Guarda, innanzitutto hai ragione, adesso arrivo a questo, però prima di tutto non si può dire che Milano o Roma ha perso la qualificazione all'ultima giornata, l'hanno perso attraverso 10 giornate di partite che potremmo anche indicare come partite buttate al vento, partite perse che dovevano vincere, partite che hai detto tu, hanno giocato la metà di diverse partite ma non l'altra metà. È chiaro che Milano non ha mai fatto un colpo, invece Roma ha vinto a CSKA, tanto per dire uno. Milano ha avuto un rendimento molto sotto le aspettative e certamente oggi loro sono in via, non è più in via Caltanissetta, ma in sede lì a Palalido, a valutare veramente per Travecis e Maciulas, che sono stati giocatori strapagati, esatto, più di soldi, più di un milione di euro a testa, il loro rendimento, perché certamente non sono soddisfatto, e anche Mike Hall, come gli capita spesso, arriva in un momento importante e fa un errore che non deve fare, o in difesa, o in attacco, o di comportamento, o uno tecnico, o qui o là, eccetera, e quindi il risultato è questo qui, che Milano anche poteva vincere contro Real Madrid, ma la squadra ha veramente, e Buchi ha capito tutto, lui ha messo in campo i 5 guerrieri, i 3 italiani, Mancinelli, Buleri e Mordente, i 2 italo-americani, Vigiano e Mason Rocca, però ovviamente è un quintetto piccolo, un quintetto leggero, e mi dispiace, in Eurolega 5 giocatori possono giocare 20 minuti, hanno fatto questi 5 ragazzi per 20 minuti, 39-32 l'intervallo, ma purtroppo nel basket ha bisogno di 10 in Eurolega. Guarda Real Madrid di Messina, ruotando il giocatore, ruotando, prima o poi, cioè, erano anche sotto di 10 a metà del terzo quarto Real Madrid, e hanno deciso di spaccare la partita in 2. Jaric, che non aveva fatto un gran che fino a quel momento, 5 punti in fila, poi nel quarto Lul, che non ha fatto niente, vince la partita 2. Quindi ci vogliono 10, ma non solamente 10 buoni giocatori, 10 in campo con la testa. Milano non ha avuto questo, e questo spiega le pause tragiche che hanno avuto durante l'anno, che l'ha costato questo accesso al top 16, che certo, è una cosa. No, tu hai menzionato Sport Italia, ti ringrazio, ma cosa credi, che noi di Sport Italia siamo felici per l'eliminazione di Milano-Roma? Siamo piangendo in maniera violenta. 800 24 00 24, numero verde. Già vi dico che dopo dovrebbe raggiungerci tra un po' Marco Mordente, che ha finito l'allenamento, si allenavano a mezzogiorno, c'è la partita contro Montegranaro appunto a mezzogiorno, insomma dovrebbe arrivare nel corso del programma, Flavio. Ecco, io volevo chiedere al coach questo: come ti spieghi dal punto di vista tecnico questa involuzione di Maciulis e Petravicius? Tra l'altro Milano aveva già dovuto subire questo nuovo assetto da quando non c'è più stato Hacker, e sembrava di aver trovato la soluzione giusta. Questi due giocatori però nell'ultimo periodo hanno subito davvero un calo di rendimento abbastanza inspiegabile. Qui stiamo parlando di un progetto, perché sì, sì, questo è il discorso chiave, coach. Involuzione di Maciulis e Petravicius, ok, però come tu dicevi, due giocatori su cui era stata costruita, esatto, questa Milano, così come era stata costruita su Vitali ad esempio l'anno scorso, e qui stiamo parlando di progetto, cioè due giocatori bocciati, wow, due giocatori chiave più costosi. Adesso è arrivato Becirovic, però non saprei. Non so come dire, perché la cosa che vorrei vedere succedere a Milano e a Roma è questo qui, di non cambiare 8 decimi della squadra ogni anno. Del progetto non vuol dire ogni anno è anno zero, cioè i tifosi dicono oh, anno zero quest'anno, dimmi quando è anno tre, ok? Quindi dicono anche questo. Ovviamente bisogna tenere un nucleo, e voi avete invitato Marco Mordente, proprio il leone proprio da Teramo, proprio veramente uno che ci mette tutto, puoi fare gli errori Marco, ok? Perché è un volonteroso, fa le cose, mi ricorda in questo Roberto Premier, bisogna accettare. Gli sbagli li fa per troppo zelo, troppo entusiasmo, per le cose positive, soprattutto la mentalità che porta la squadra. Lui e Bullo e Mancinelli sono veramente stati in questa Eurolega eroici per la squadra. E poi Buchi ha capito, ho bisogno di Mason Rock, 1,98 m, neanche 2 metri, però un leone che lotta fisicamente con gli altri, ma sai, lui gioca contro un giocatore come Lavrinovic che è 2,13 e lui 1,98 m, certo. Mi dispiace, alla fine costa. Certo, Hall, come dicevi tu, più dannoso che altro in questa situazione. Mamma mia. Io so, peraltro coach, so che da fonti ben informate Milano aveva anche la possibilità di prendere Jaric, Marco Jaric, che poi è andato non l'ha voluto. Ma a cifre assolutamente abbordabili, perché si parla ufficiosamente di 400.000 euro fino a fine stagione. Non mi sembrano tantissimi soldi per un giocatore come Jaric. Perché non Jaric a Milano? Questo non lo so dire, perché poi anche mi è dispiaciuto magari per Milano il discorso Iverson, perché magari Iverson non viene alla fine, però Marco Jaric è venuto in Europa e poi lì ha veramente aperto il cuore a chirurgia, a cuore aperto l'altro ieri a Milano, il suo 5-0 ha letteralmente rovesciato la partita, infatti Buchi ha chiamato time out. Non solo motivazione per questo, perché Jaric è un giocatore che veramente fa differenza. L'avresti preso tu? Tu l'avresti preso? Oh yeah, assolutamente. Ma tornando ai due lituani, voi sapete, noi stiamo parlando oggi di Petravic e Maciulis, ok? Ma la storia dei lituani fuori dalle Lituani in Europa a livello di club era storia a metà, ok? Ricorda quando Stombergas era sensazionale, sì, sì, al Žalgiris Kaunas, viene alla Virtus Bologna e sembra un fantasma, cioè la metà di quello che poi ha fatto altri viaggi attorno all'Europa, ma loro quando escono dalla Lituania o fanno benissimo o malissimo, e dobbiamo essere tutti vigenti per sapere quale dei due abbiamo preso. Vorrei, vorrei vederli a Siena questi due però. Yeah, può darsi, ok, perché Siena riesce a inserire e valorizzare certi giocatori, ad esempio ovviamente Kaukainen ha avuto i vantaggi di giocare in altre città di Europa, prima di Siena, prima in Slovenia, poi a Cantù, e poi cioè, si è adeguato, poi ha giocato in America, ha avuto il coraggio di andare in diversi posti, però prendere i lituani è veramente una cosa rischiosa. Sabonis è stato grandissimo, altri sono state delle grandissime delusioni, ok? Molti hanno fatto bene, però non tutti, non è una garanzia di quello che uno fa all'Edbus Ritas o al Žalgiris Kaunas che lo farà altrove, e quindi Milano certamente sta leccando le ferite, cioè, e poi Mike Hall è andato dentro, è facile criticare adesso, è andato dentro mercoledì, ha combinato, cioè, nel quarto di gioco, che sono entrati due punti sotto, Sì, sì. No, la partita era ancora aperta, ok? E ha avuto una sequenza di disastri da Cinetech, ok? Cioè, proprio non so cosa dire, cioè, e noi, io sono ancora non tranquillo per questo risultato, neanche di Roma, perché non per far tifoso, perché ma per noi di Sport Italia siamo dispiaciuti in una maniera terrificante, ci voleva tanto per avere loro tutti e due avanti. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Ciao ragazzi, un abbraccio a Mordente quando arrivo, ok? Grazie. ciao Flavio, ciao coach. Ciao coach. Palla spicchi. Dunque, vari messaggi, 349-238-6666, alcuni ricordano, ma poi ovviamente ne parliamo con Flavio Tranquillo, alcuni ricordano The Italian Night che ci aspetta, o meglio come l'hanno ribattezzata a New York, Italian Heritage, per il confronto di questa notte, ore 2 italiane, tra Gallinari ed Antoni da una parte e naturalmente Bargnani e Berinelli dall'altra. C'è un messaggio: New York-Toronto stanotte, tra italiani in campo in una partita NBA, un piccolo sorriso in una stagione disastrosa per il nostro basket. Ce ne sono poi vari altri, ad esempio questo: ho visto giocare una delle più brutte partite di Biella di quest'anno e quasi vincevamo a Milano, una situazione veramente preoccupante, scrive Nico. C'è Fausto da provincia di Varese in linea, buongiorno Fausto. Buongiorno. Dica. Niente, allora io volevo dire un attimino due cose su Milano. Sono stato anche a vedere direttamente le partite da Sago. Sì. E sono d'accordo con The Coach quando dice che purtroppo non si può cambiare tanti giocatori durante un'unica stagione. Bisogna cercare di creare un nucleo. Certo. Ho visto molti giocatori che giocavano da soli. No, c'è poco gioco di squadra. Buchi è un grande allenatore, però cambiare tanti giocatori che devono dimostrare in brevissimo tempo quello che sanno fare. Mi dispiace di non poter sentire Mordente, che lo considero un grande. Adesso arriva. spero salvi, allora di sentire. Salutatemelo tanto. Sarà fatto. Tra l'altro, Carlo, il nostro ascoltatore ha ragione, perché comunque Roma e Milano hanno avuto un andamento abbastanza simile, cioè anche Roma ha cambiato tanto durante l'estate, ha cambiato in corsa, adesso ha un assetto che non è potrebbe non essere definitivo. Milano si è trovata a cambiare tantissimi giocatori, addirittura, come dicevi tu prima, adesso sta pensando di mettere in discussione i due su cui aveva costruito il suo progetto. È una situazione sicuramente preoccupante, voglio dire. Però, voglio dire, i soldi spesi sono stati molti l'anno passato, come quest'anno, di ingaggi, eccetera, eccetera. E qui, appunto, non si tratta della questione di una eliminazione dall'Eurolega. È in discussione l'intero progetto. È vero, Milano va meglio in campionato, è vero, farà la Coppa Italia, cosa che Roma è tutt'altro che certa di fare, perché domenica per Roma c'è la partita della vita contro la Virtus Bologna a Bologna, e è una partita da vincere a tutti i costi per andare a giocare questa Coppa Italia, che alla fine paradossalmente è diventata il vero campionato italiano, perché se c'è una chance di battere Siena, c'è una possibilità. Tra l'altro, se ti ricordi, l'anno scorso, Carlo, Milano passò alle top 16 di Eurolega ma non raggiunse le Final 8 di Coppa Italia, quindi ha avuto un andamento esattamente opposto rispetto alla stagione scorsa. C'è un messaggio che dice: ma i giocatori, Nico scrive, bisogna inserirli, ci va tempo per fare un gruppo ed una squadra. Allora, di chi è la colpa dell'ennesimo anno di transizione di Milano? Fate voi. Il discorso è che almeno l'anno scorso Milano era riuscita ad accendere l'entusiasmo con una vittoria sul CSKA, con la stessa vittoria in Grecia che aveva portato poi alla qualificazione sul campo dei Panionios. Insomma, qualcosa era riuscita a fare. Quest'anno l'Eurolega è davvero avvilente. Io ho letto un'intervista a Livio Proli che diceva: usiamo l'Eurolega, il nostro allenamento per il campionato. Non so fino a che punto un allenamento di questo tipo possa poi pagare. Ripeto, torna ad essere in discussione un progetto. L'anno scorso c'era stato un abbozzo di squadra che vedeva in Vitali il giocatore perno, poi si è cambiato tutto in estate, allora questa doveva essere la Milano dei lituani. Tra l'altro, Maciulis e Petravičius presi in prospettiva Eurolega, perché Petravičius è considerato per stazza e per caratteristiche comunque un centro d'Eurolega, mentre di nuovo questi sono finiti ai margini della squadra, o così è più dannoso che altro. Dunque si tratta di ridisegnare tutto, e Rocca, giocatore di rimpallo, è spesso il migliore anche come cifre. Marco Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Il mio servizio di questo, volevo dire questo: io sono un dirigente di una società di Serie C, di basket, e l'eliminazione di tante società in Eurolega e il campionato fantasma che c'è in Serie A penso sia figlio anche di quello che succede nelle serie minori. Cioè, le serie minori, voi sapete di Basketopoli, quello che è accaduto, e dove non c'è stata ancora assolutamente chiarezza, e dove ancora si vedono degli arbitraggi scandalosi, e molti dirigenti, molte società, che poi il basket non è solamente Mancinelli o Bargnani, ma il basket sono le piccole società e dirigenti che si sacrificano tutti i giorni per questo sport, che i sacrifici sono vani, c'è degli arbitraggi vergognosi e delle pastette ancora non risolte. Guardi, questo, Marco, io questo non lo so, eviterei però di mettere tutto nella stessa pentola, perché sennò facciamo solo della gran confusione. Sugli arbitraggi non le so dire, su quello che è successo lo sappiamo e siamo in attesa anche di risposte, e non generalizzerei, quindi non so darle una valutazione precisa su quanto lei dice. Insomma, non mi sembra però corretto mettere tutto nello stesso discorso. Saluto e ringrazio coach Matteo Bonicioli. Buongiorno. Coach. Ciao Matteo. Dicevo prima, abbiamo parlato a lungo di Milano, io riesco paradossalmente a trovare invece qualche motivazione o qualche giustificazione nell'eliminazione di Roma, anche se è vero che quando si parte con 3 vittorie normalmente ci si qualifica, però la contingenza forse vi ha eliminati, o no? Ma sai, quando si parte con 3 vittorie normalmente ci si qualifica, poi succede che la partita col Maccabi, persa in maniera oggettivamente incredibile, determina una svolta psicologica negativa nella squadra, nell'allenatore, nell'ambiente, si entra nel tunnel e poi dopo succede quello che succede. Insomma, in questo contesto, secondo me, lo dico ancora una volta, ma parlando con voi ho occasione di ribadirlo, Nando Gentile ha fatto una cosa che in Italia fanno molto pochi, cioè ha dato le dimissioni, che è un gesto secondo me di una serietà tipica dell'uomo, perché Nando è una grande persona. E sapendo che l'allenatore ha un ruolo importante, vitale nella vita di una società, non avendo responsabilità soltanto lui, ma avendone anche lui, perché quando le cose vanno bene è merito anche dell'allenatore, quando le cose vanno male è responsabilità anche dell'allenatore, ha fatto una cosa di una grande serietà. Ecco. Adesso, a fronte di questo, è chiaro che noi l'eliminazione ce la siamo meritata per quello che è stato l'andamento di tutta l'Eurolega. La finiamo con quattro vittorie, quella di ieri secondo me convincente, perché l'Olimpia è venuta a Roma per giocare. La settimana scorsa l'Olimpia ha perso in casa dopo un supplementare col Cesca, è un supplementare discutibile dal punto di vista di alcune scelte arbitrali. Sì. Il fatto che li abbiamo battuti di 20 punti tenendoli a zero i primi 7-8 minuti, secondo me non è un sintomo della demotivazione di Lubiana, ma è un sintomo della nostra crescita. Ora è chiaro che però in questo momento noi dobbiamo essere consapevoli di essere l'undicesima squadra del campionato italiano, e l'undicesima squadra del campionato italiano non fa le top 16 di Eurolega. Sì. Molto semplice. Questo è vero. Anche vero che a Lubiana ieri, ma per la cronaca, mancavano diversi giocatori, compreso anche a noi Ciroic. Mancavano diversi giocatori. Sì. Coach, invece, ieri sera ho rivisto finalmente Jaber e mi fa molto piacere. Non trovo motivazioni e spiegazioni nell'involuzione di questo giocatore. No, invece io le trovo molto chiare. Jaber, che è un ragazzo sensibile, ha patito, è entrato in un tunnel di depressione sportiva. Sì. Dopo essersi sentito giustamente responsabile della sconfitta col Maccabi in casa, due tiri liberi sbagliati in un momento importante e un mancato fallo sul portatore di palla del Maccabi, che ha consentito poi di fare un passaggio lungo a Wisniewski, che ha tirato il tiro del pareggio. Spesso succede, io l'ho visto tante volte nella mia carriera, un giocatore entrare in un momento di difficoltà a causa del quale anche le cose più semplici non riescono. Io, come gli ho detto, da questi momenti si esce allenandosi ancora più duramente di prima, non dandosi delle scuse, non compatendosi, non commiserandosi, cosa che Ibi ha fatto, e aspettando che succeda qualcosa di positivo, che venga in un momento solo a cancellare tutto quello che di negativo sia stato nell'ultimo periodo. Io mi auguro che la partita di ieri, giocata come Jaber deve giocare, in un momento tra l'altro di complesso per la vita della squadra, perché noi stiamo cambiando tutto rispetto a quello che c'era prima, perché non perché quello che c'era prima fosse stato fatto male, semplicemente perché io e Nando, che siamo due allenatori di pallacanestro, abbiamo idee diverse, certo, rispetto a come, certo, questo mestiere vada fatto, certo, e come si debbano giocare le rispettive squadre, quindi non c'è nessun tipo di valutazione negativa, ma essendo arrivato io qua faccio quello che penso io sia giusto fare. Naturale. In questo contesto è chiaro che Ibi, che è un giocatore molto istinto e poca lettura, gli è stato richiesto per il suo bene di cominciare a ampliare il raggio, diciamo, d'azione sul campo, leggendo oltre che andando d'istinto. Il mio compito è quello di cercare di trovare un punto medio tra le mie esigenze e le sue. Se andiamo avanti così da qui fino alla fine della stagione, io sono molto contento. Coach, adesso inevitabilmente il vostro obiettivo si sposta sul campionato e se possibile appunto tentare questo accesso, questa scalata alle Final Eight di Coppa Italia, che potrebbe anche rappresentare un obiettivo ottimo per il morale della vostra squadra. E domenica c'è una finale a Bologna. Sì, domenica c'è una finale. Io devo dire questo, che il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della nostra pallacanestro. Migliorando la qualità della nostra pallacanestro, Le Final Eight onestamente le vedo difficili, non tanto perché vedo difficile, o meglio dire, la vittoria eventuale contro la Virtus è difficilissima, perché la Virtus è una squadra che ha una consistenza mentale incredibile, e la vittoria contro Caserta in casa la domenica successiva è ancora più difficile perché Caserta è seconda in classifica. Però il problema non è questo, il problema è che si vince se ci si allena, allenandosi si migliora e migliorandosi si vincono le partite. Questa è la prassi, voglio dire. Non esistono scorciatoie. Io amo molto questo sport e questo mestiere perché è un mestiere di costruzione, non è un mestiere di trucchi e di invenzioni. Allora in questo contesto io sono convinto che nel finale di stagione noi arriveremo a recitare un ruolo importante in questo campionato, perché lo sforzo che ha fatto il presidente Totti è uno sforzo che va ricompensato con dei risultati e non con dei discorsi. In questo contesto io mi auguro che questa crescita, che onestamente Noi abbiamo un differenziale con Lubiana, credo, di 40 punti tra quella, sì, tra quella persa e quella vinta. Credo che questo sia un sintomo del fatto che la squadra è in crescita. So che abbiamo ancora tante cose da fare, però la squadra sta rispondendo adeguatamente alle sollecitazioni che abbiamo io e tutto lo staff tecnico proposto, e quindi ho molta fiducia. Coach, riesci in 30 secondi a dirmi perché tu sei l'unico allenatore che fa veramente paura a Siena in un clima di sottomissione? Fatto che secondo me loro non in un clima di sottomissione, ma secondo me gli dai fastidio. Posso sì, dire? Ma guarda, ma io do fastidio a Siena perché li ammiro molto. E siccome li ammiro molto e di mestiere io sono pagato per competere, sì, è chiaro che se faccio una gara di 100 metri cerco di competere contro Mennea, non contro di te, con tutto rispetto per le tue qualità di velocista, capisci? Allora in questo contesto, facendo l'allenatore di pallacanestro e sapendo perfettamente che Siena in questo momento è la miglior struttura tecnica e organizzativa che esiste in Italia e una delle migliori che esiste in Europa, dichiaro apertamente che voglio misurarmi con loro, possibilmente battendoli. Mi è capitato, certo, e forse questo disturba, però è divertente, no? Come no, meno male che c'è Matteo. Grazie, buon lavoro, coach. Grazie anche a voi. Presto. Grazie a Matteo Boriccioli. Dunque, Marco Mordente non potrà essere qui, mi informano dalla regia, perché è impegnato in sala pesi. E mi sembra chiaro il gesto di là del vetro. Vedremo di provvedere. Palla spicchi. I messaggi sono tantissimi, 349-238-6666, tra un po' do l'incarico a Flavio Sordi di setacciarli. Appuntamento già preso per uno dei prossimi venerdì con Marco Mordente. Il richiamo della sala pesi alle 2 del pomeriggio. Costretto, gli è stato ordinato di una seduta supplementare di pesi e dunque non potrà essere fisicamente con noi oggi. Milano, ripeto, ha firmato Sani Becirovic 2 mesi con possibilità di estendere il contratto fino alla fine della stagione. È un giocatore che certamente può dare una mano a Milano in questo momento, ma non è il punto di un giocatore che può dare una mano, non è il punto di tappare buchi in attesa del rientro di Finlay e di Hacker, è il punto di un intero progetto in totale discussione, mi pare, in questo momento. Peraltro per Finlay si parla di strappo, quindi comunque i tempi non sono brevi, bisognerà vedere poi. E siamo sempre lì, se vale il paradosso di una stagione italiana ridotta alla Coppa Italia, perché quello è l'unico obiettivo veramente praticabile, Milano si presenterà a giocare la Coppa Italia, a giocarsi la Coppa Italia senza Finlay. 800 24 00 24, anche un sacco gli ascoltatori che vogliono intervenire, parliamo con loro molto volentieri. Giovanni, Andrea, Antonio, partiamo da Modena. Giovanni, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao. Io vi volevo proporre un ragionamento, cioè secondo me il punto centrale di tutti i discorsi è legato alla mancanza di giocatori italiani validi, a parte tre che sono in America, ma cioè, tutto il cuore del problema è lì, perché dopo tutti i progetti, diciamo, di assemblamento di giocatori americani o lituani, eccetera, sì, eccetera, eccetera, legato peraltro a concetti di mercato con società che hanno dei budget evidentemente anche all'estero molto più alti, sì, e poi dopo alla fine porta a queste conseguenze anche di risultati negativi, quindi sì, cioè, secondo me il punto focale dove dobbiamo partire è la mancanza di giocatori italiani validi. Cioè, guardate le statistiche della Lega Adriatica, i primi 10 giocatori sono tutti locali. Sì, certo, con percentuali di tiro oltre, certo, 50%. Giovanni, con concetti e con principi diversi. Tante volte abbiamo parlato del Partizan Belgrado, di quello che della politica del Partizan Belgrado, però in tutto questo discorso come inseriamo Siena? Che pure non fa una nazionale americana, sì, è una nazionale americana. Però stiamo parlando di squadre e di giocatori, stiamo parlando di idee e di progetti, di squadre, sì, competitive. Ma è uno, infatti è nella top 16. Esatto, è uno, ma non è che gli altri non possono seguire la lezione di Siena, che è hai ragione. La parola chiave è competenza in questo da questo punto di vista, scelta dei giocatori. La politica di mantenimento dei giocatori più forti, è chiaro che bisogna avere i quattrini per farlo, però McIntyre ad esempio poteva andare a guadagnare montagne di soldi in Grecia, non c'è andato, eccetera eccetera, lui dice no, io sto qui, voglio giocarmi ancora una stagione qui, voglio vedere la fine di questo ciclo di Siena, fine che io onestamente per il momento non intuisco, che molti sperano avvenga presto per cominciare magari a vincere qualcosa, però la chiave di Siena è questa: competenza e programmazione. Sì, e anche uno staff, Carlo, che voglio dire, dal punto di vista della competenza specifica, si può dire tranquillamente che sia, se non il migliore in assoluto, sì, sì, uno dei migliori. Ed è anche vero che la competenza specifica in tutti i settori, non soltanto nella pallacanestro, non è una cosa che si, cioè, no, si trova facilmente. Quindi anche a livello dirigenziale Siena è un esempio che andrebbe seguito. E non viene seguito. Quindi non, poi il discorso dei giocatori italiani è altro e diverso, ma secondo me non rientra in questo discorso della competitività a livello soprattutto europeo. Andrea Cremona, buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, sono un po' emozionato. Addirittura. Perché? Insomma, sono un appassionato. Volevo dire due cose. La prima è che ieri sera ho visto la partita di Siena, sì, in TV. E devo fare veramente i complimenti a Ricky Rubio, che mi sembra veramente un bel giocatore. Bel giocatorino, cosa dici? Con una bellissima visione di gioco, l'altruismo giusto, veramente bravo. Sono riuscito a vederlo giocare ancora ai tempi di Badalona nel Final A di Torino. Ero andato per Rudy Fernandez, ma già lui mi aveva colpito all'epoca. Credo che l'anno prossimo, migliorando un po' il tiro, possa davvero avere un buon futuro nell'NBA. Veramente complimenti a lui, è una bella realtà. Sì. E Siena, che comunque ha fatto una buona partita, però in due partite col Barcellona ha patito scarti che non sono stati proprio bassi. Sì, cui, anche se le leggerei in maniera diversa queste due partite. Però perché comunque, voglio dire, giusto per statistica, devo dire che non ha proprio perso di un soffio. Direi che il Barcellona mi sembra molto attrezzato. Il Barcellona è l'unica squadra oggi in Europa ad aver vinto tutte le partite in questa stagione, cioè 14 in campionato e 10 in Eurolega, percorso netto 24 su 24. Siena secondo in classifica perché ha perso le due con il Barça, però sono due partite da leggere in maniera diversa, perché se ci limitiamo a guardare gli scarti sono botte gol da una parte e botte gol dall'altra, ma l'andata era stata lezione di basket, ieri invece è stata una partita che credo possa aver detto a Siena che quello che Bonicioli ha detto, cioè che si batte in una partita secca e non in una serie, anche perché probabilmente il Barcellona, Carlo, è una di quelle squadre, delle poche squadre che può combattere sullo stesso terreno di Siena, che è quello della fisicità molto esasperata oltre ad un'ottima tecnica individuale. Però insomma, dal punto di vista del fisico, il Barcellona forse è una delle squadre che può dar più fastidio, e l'ha dimostrato, sì, direi. Non c'è dubbio, ieri Siena ha patito ancora fisicamente, però all'andata era stata veramente una lezione. Quella di ieri invece è stata una partita che, ripeto, ha detto a Siena come il Barcellona sia davanti ma non sia poi così, così lontano quanto a Ricky Rubio. Vabbè, vi ricordo soltanto che ha 19 anni attualmente, no? Che gioca in prima squadra nella Serie B spagnola da quando ne aveva 14, in Eurolega da quando ne aveva 15, adesso ne ha 19. Bel giocatorino, ha ragione Andrea. Ieri 10 assist, tra l'altro, e tra parentesi. Antonio Salerno, buongiorno. Salve, buongiorno. Ho due osservazioni. Una domanda a lei su Milano e un'osservazione su Ricky Rubio. Mi sembra onestamente il playmaker più forte che abbia mai visto giocare, e lo guarderei soprattutto nell'applicazione difensiva piuttosto che in attacco. C'è un ragazzo che ha 19 anni, con quel talento e con quelle capacità, riesce alla fine della partita, al 38esimo minuto, ad applicarsi ancora a quel modo, in quel modo in difesa, e secondo me è là che si vede il campione, non tanto nei 10 assist, sì, eccetera. Io lo dico perché ho giocato a basket per svariato tempo e di giocatori talentuosi ne ho visti. Sì. Vi assicuro che il giocatore si vede là, oltre che tutto il resto. I margini di miglioramento sono lì, non sono da guardare negli assist, quello è talento. Quello non si insegna, l'applicazione a me mi ha spaventato, l'applicazione difensiva negli ultimi due minuti. Sì, cosa che ha fatto vedere, Antonio, stia lì, cosa che ha fatto vedere anche agli europei, dove peraltro, lei si ricorderà, era stato per tutta la prima chiacchierata fase dell'europeo della Spagna il giocatore, l'anello debole di quella catena. Non ha giocato un grande europeo nella prima fase Ricky Rubio in nessuna delle due metà del campo, poi è naturalmente cresciuto e alla fine ha guidato con Pau Gasol la Spagna. Lei fa bene a parlare di margini di miglioramento perché sono ancora tantissimi. Io sottolineo la personalità con cui Rubio gioca, appunto, ad anni 19. Prego Antonio. E poi il resto che volevo dire su Milano, volevo dire una cosa. cosa, ma lei ha detto il fatto di Maciulis e Petravičius. Io onestamente io penso che Maciulis e Petravičius, per quello che ho visto contro il Real Madrid, siano la debolezza, non la forza di Milano, nel senso che quando non erano in, quindi mi riallaccio alla questione sulla competenza, quando non erano in mezzo al campo Milano era sopra, non era forte. Sì, no, ma allora la mia impressione è che questi nomi, questi giocatori blasonati o questi nomi che per il mercato rappresentano dei giocatori forti, poi alla fine non è che siano questo grande valore aggiunto, anzi. Allora, prima abbiamo parlato di giocatori lituani, abbiamo parlato delle difficoltà che spesso hanno incontrato, abbiamo parlato anche di del fatto che mi piacerebbe vedere questi due giocatori in una squadra di sistema come Siena. È chiaro che Maciulis e Petravičius, presi così come sono, non sono due fuoriclasse assoluti. Secondo me sono due giocatori che però messi in un sistema possono, certamente non sono quelli che non abbiamo visto contro Real Madrid. Poi va anche detto che insomma, due giocatori che erano stati presi per, ripeto, rendere Milano fisicamente competitiva in Europa. Due giocatori che l'Eurolega la conoscono bene e nella quale hanno giocato anche stagioni di alto livello. È chiaro che usati da cambi, usati a partite in corso, usati per spezzare il ritmo, e a questo discorso aggiungo anche Michael, insomma, non possono, secondo me sono ingiudicabili, non possono essere valutati in questa Milano e nella partita dell'altra sera con il Real Madrid. Lo stesso Michael, ricordate l'anno scorso nel finale di stagione, era, dicevano alcuni, il giocatore su cui costruire la Milano del futuro. È chiaro che usato come succede ora, come cambio, a partite in corso, non è il giocatore che ha le caratteristiche per entrare e fare cose positive. Io non so se sei d'accordo, secondo me è molto più evidente l'involuzione di Maciulis che non di quella di Petravičius. Per esempio, Maciulis ha fatto tutta la seconda parte di questo girone di Eurolega giocando davvero sottotono, ha fatto 20 punti a Madrid contro il Real e poi ha giocato davvero delle brutte gare, proprio fino a quella dell'ultima dell'altra sera, cioè le sue cifre sono scese sia in Eurolega che in campionato proprio da quel momento. Chissà che qualche scossone dal punto di vista dell'assetto, quando se n'è andato Hacker, quando si sono dovuti trovare nuovi equilibri, non abbia messo in difficoltà il lituano. Magari anche questa la spiegazione. Sì, non lo so, ripeto, secondo me sono giocatori di sistema. Messi questi giocatori in una squadra che gioca in un'altra maniera, faccio esempio di Siena, posso anche fare l'esempio a casacche invertite con il Real Madrid. Secondo me Maciulis è un giocatore che anche fisicamente può far male a livello di Eurolega nello spot in cui gioca. Detto questo, insomma, Milano, io credo la cosa da sottolineare è che siamo a metà gennaio, fuori dall'Eurolega, e con degli infortunati pesanti, stia ancora cercando un'identità precisa. Questo mi sembra da sottolineare, e sottolineo anche come, se veramente c'era la possibilità di prendere Marko Jaric, insomma, io l'avrei fatto senza pensarci moltissimo per una squadra e per una piazza come Milano. Palla spicchi. Nando Gentile a 19 anni era come Rubio, scrive un ascoltatore. Insomma, come Rubio magari no, però certamente Nando Gentile a 19 anni era un giocatore che spostava in Italia e non solo. Siena inferiore anche al Real Madrid, scrive Gianni. Non sono così convinto in questo momento, direi proprio di no. In questo momento direi di no. Un paio d'anni di cura Messina e poi magari ne parliamo. A Toronto Bellinelli, Marco the Playmaker, solo un soprannome per adesso, con Jaren Jack in campo. Marco è il vero creatore di gioco, scrive Beppe da Vicenza. Io sono davvero curioso di vedere questa sera. Beh, so ci arrivo. Se no la si vede domani in replica. Comunque c'è modo di vederla domani in replica, a mezzogiorno. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ti aspetto stanotte, Buonanotte soprattutto, esatto. Italian Heritage, tutto esaurito al Madison Square Garden. Come l'altro italiano che c'era riuscito è Benvenuti nel 67 contro Griffith, Sì, però diciamo un po' meno storico, però per noi simile. Quanto pesa questa partita per il basket italiano, Flavio? Secondo me dovrebbe pesare di più, di per se stessa pesa come una delle 82, a parte che è molto importante tra l'altro per le implicazioni, certo, dei playoff delle due squadre. però è importante e giusto, una delle 82 non va assolutamente presa come la fine del mondo. Sarebbe bello se lo prendessimo come l'inizio di un mondo, cioè l'inizio di un mondo in cui magari tutta la pallacanestro italiana si riconosce in tre rappresentanti che sono a giocare nel campionato più importante del mondo, che ha le sue contraddizioni come tutte le cose umane, però è il più importante del mondo. Mi sembra che non ce lo ricordiamo abbastanza spesso. Per paradosso, Flavio, arriva questa partita, arriva a 24 ore di distanza da un'istantanea molto grigia, no, del basket italiano. Per la prima volta negli ultimi 10 anni, come sai bene, solo Siena rimane in vita, ma anche nelle altre coppe non brilliamo, nazionale lasciamo stare. Insomma, il chiaro e l'oscuro, no? Chiaro stasera a New York, l'oscuro che si è concretizzato nell'ultima notte di Eurolega. Questi sono dati e quindi, come tutti i dati, hanno la loro ostinazione, la loro testardaggine e hai voglia a dire che non esistono. Per la verità sono abbastanza vecchio da aver visto tante situazioni del genere in cui le squadre italiane in Coppa faticavano tantissimo, ma anche abbastanza vecchio da aver visto tante Final Four, per esempio, con due squadre italiane, tante vittorie di Bologna, qualche vittoria di Milano andando un po' più indietro, eccetera, eccetera. Ho paura che non sia necessariamente, siccome non ci sono i risultati, allora le cose sono grigie, ma le cose sono grigie indipendentemente dai risultati, o meglio, sono grigie indipendentemente dai risultati, perché poi ci sono anche indicatori che puntano nell'altra direzione e questa sera naturalmente al certo. Madison Square Garden è uno di quegli indicatori. Stiamo parlando, Flavio, del progetto Milano, perché io trovo, l'ho detto prima, che l'esclusione di Roma, l'eliminazione di Roma sia anche figlia di contingenze. Credo che Roma abbia buttato via, tu lo sai benissimo, le top 16 con quel mezzo canestro che ballava con Marussi, non certo ieri sera, però Roma ha attraversato diversi mari nel corso di questa stagione, compreso il cambio dell'allenatore. A Milano invece mi sembra che sia in discussione l'intero progetto, con i lituani che erano il perno della nuova Olimpia, che sono finiti ai margini di questo discorso. Hall, che l'anno scorso sembrava il giocatore su cui magari pensare, ha scritto, detto qualcuno, non sono così d'accordo, costruire la Milano del futuro. Adesso ci troviamo con Rocca, giocatore di rimpallo, che è spesso il migliore in campo, appunto con i lituani bocciati, con Ol che è più dannoso che altro. Ora arriva Becirovic, che è una pezza, e il progetto Milano secondo me resta in discussione. Sì, è in discussione, dovrebbe mettersi in discussione secondo me, ma non dovrebbe mettersi in discussione per dire va tutto male perché adesso siamo fuori dalla top 16. L'anno scorso l'entrata nella top 16 non è stata particolarmente più gloriosa di questa eliminazione, e poi se fossero andati diversamente due possessi al Pireo, casomai cacciavano anche fuori l'Olympiacos dall'Eurolega, l'Olympiacos. Dei 35 milioni di euro di budget. Quindi il problema non è il risultato di per sé stesso, il problema non è dire siccome hai perso una partita o hai mancato un obiettivo allora va tutto male, posto che se uno non vede i problemi, faccio due nomi a caso, Diole Maciulis, e non vede che in questo momento i due giocatori di maggior impatto si chiamano sicuramente Bullieri e Rocca, o Rocca e Bullieri, e sono rimasti lì, diciamoci la verità, perché avevano un contratto che non era commercializzabile. Beh, allora è chiaro che delle domande te le puoi e te le devi porre, ma non nel senso, ripeto, di dire va tutto male. Secondo me la domanda da porsi è cosa vogliamo fare da grandi, perché questo tipo di politica secondo me ti porta un anno ad andare di poco alla top 16, un anno ad andare di poco fuori dalla top 16, un anno arrivare secondo e un anno arrivare sesto, perché poi naturalmente dipende che parte del tabellone vai, non c'è niente di male a fare così, però secondo me deve essere chiaro fin dall'inizio, altrimenti generi delle aspettative, perché c'è scritto Milano, c'è scritto Armani, eccetera, eccetera, che forse non sono commisurate a quelli che sono i tuoi reali obiettivi. Bravissimo, basta, Flavio, dirlo. Quali analogie e quali differenze secondo te tra l'eliminazione di Milano e quella di Roma? Insomma, due situazioni che insomma il risultato è lo stesso, però è maturato in maniera direi diversa. Beh, naturalmente una differenza è che Roma ha vinto con l'ex Tau, ha vinto a Mosca, era sostanzialmente qualificata all'inizio di questo girone e poi ha infilato una lunga serie di sconfitte e ha attraversato il trauma del cambio di allenatore e della crisi. Milano ha avuto un'uscita un po' più morbida, nel senso che semplicemente non è stata in condizione di fare un colpo diverso dalla logica, laddove lo scorso anno aveva vinto in casa con Real Madrid e soprattutto aveva fatto quell'incredibile rimonta con il Cesca. Io credo che però ci sia una cosa che accomuna queste due situazioni, non lo dirà mai nessuno, e non è che sono uscite dall'Eurolega apposta, però diciamo il dispiacere di essere usciti dalla Top 16 è, secondo me, più che controbilanciato dal piacere, tra virgolette, di potersi allenare senza l'interruzione dell'Eurolega. E allora forse bisognerebbe interrogarsi, prima di cominciare l'Eurolega, se uno la vuol fare davvero, ripeto, con scritto su Milano, vinta più volte, Roma, vinta una volta, sulla maglia, oppure se proprio non la vuol fare, perché per paradosso magari sarebbe più coerente. Sì, sì, sì, hai ragione Flavio, il discorso è che poi ci sono alcune cose che non capisco. È vero che c'è l'intervista, c'è Livio Prodi che ha detto l'Eurolega è il nostro allenamento per il campionato, però Milano prendere l'Eurolega come allenamento per il campionato mi sembra tanto. E poi c'è anche il fatto che mi pare che nelle dichiarazioni di intenti di inizio stagione i lituani siano stati presi proprio in prospettiva Eurolega, proprio come giocatori di stampo europeo, o mi sbaglio? Ma sì, effettivamente c'è un po' di distanza. Io non trovo che faccia scandalo quello che ha detto Prodi a Repubblica, perché uno dice quello che pensa, sì, e sì. Se dice quello che pensa assolutamente ha il diritto di farlo, poi ha il diritto di fare l'Eurolega, non fare l'Eurolega, farla per l'allenamento, farla per vincere, distruggere la squadra se è sotto dopo il primo quarto della prima partita o accettare 0-10, non da fuori è assolutamente inutile e insensato andare a sindacare. Ciò detto però si rileva la contraddizione tra le due cose, cioè tu fai di tutto per qualificarti per l'Eurolega, poi ti senti quasi costretto a prendere dei giocatori di una certa fascia di prezzo, e sappiamo benissimo che quando alzi il prezzo alzi le aspettative, e magari lo stesso Maciulis a Kaunas a 200.000, faccio dei numeri a caso, sembra una cosa, a Milano a 800, il numero totalmente a caso, ma è tanto per dare un'idea, sembra un'altra. E quindi delle due cose l'una, o è un allenamento, e allora puoi farlo anche con una squadra che magari pensi ti darà dei risultati tra 2-3 anni e fai maturare dei giocatori, o se no la fai veramente per passare, poi magari non passi perché non ce la fai, però prima di non passare cerchi veramente di fare di tutto per arrivarci. Sì. Vito Roma, ascoltatore, l'ultimo di oggi, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Niente, volevo innanzitutto ringraziare che finalmente c'è una trasmissione bella sulla pallacanestro. Perfetto. Che purtroppo in Italia è una cosa rarissima. Punto secondo, volevo dire, dunque, riguardo Siena mi è sembrato ieri che abbia avuto una sorta di deferenza nei confronti di Barcellona, del Barcellona, e in pratica ha fatto quello che le altre squadre italiane fanno nei confronti di Siena, cioè non si cristallizzano il gioco, non riescono più a farlo. E Siena avrebbe, se avesse avuto dei giocatori diciamo più individualisti, sarebbe riuscita a dare molto di più, però Siena è pensata come un ingranaggio perfetto da Pianeggiani, quindi o riescono a fare il gioco che alla Pianeggiani, oppure ovviamente è parecchio difficile. Vito, non sono così d'accordo, però non sono così d'accordo su quanto lei dice, però volevo una lettura di Flavio Tranquillo sulla partita di ieri di Siena. Al di là di quello che stava scritto alla fine sul tabellone, due partite molto diverse, queste due con il Barcellona, e Siena ieri mi è sembrata molto più vicina al Barcellona. Flavio? Sì, più vicina che all'andata è stata vicina per 20 secondi. Sì. In questa partita direi la cosa positiva è aver preso ancora una volta il treno in faccia all'inizio e comunque aver reagito almeno un paio di volte. La distanza mi sembra enorme, sono d'accordo sul punto, il Barcellona ha lo stesso dominio degli avversari finora in Eurolega che a Siena nel campionato italiano, ovvero sia c'è un momento della partita in cui il piede va pesante sull'acceleratore e a quel punto travolge tutto e tutti questa macchina che si chiama Barcellona. Il discorso è, questo Barcellona mi sembra nettamente la miglior squadra vista negli ultimi 10 anni in Europa, ma con un vantaggio incommensurabile sulla seconda, il che porta a due considerazioni. Uno, che è un po' troppo presto. Sì. E due, che la Final Four poi significa due partite secche. Allora, se Siena, Panathinaikos, Olympiakos, Real Madrid, chi per loro, dovesse giocare una serie di playoff contro il Barcellona, io credo che l'Eurolega sarebbe finita. Sì, una partita secca non è finita mai. D'accordissimo. Siena, se riesce ad andare alla Final Four, magari ci arriva da sfavorita questa volta, diventa una squadra di enorme pericolosità. Sono d'accordissimo con quanto tu dici, cosa che ha detto anche Pianigiani, imbattibile Barcellona in una serie, magari si può fare in una partita secca. Ti chiedo ancora questo, Flavio, in 20 secondi, a che punto è invece il Real Madrid di Messina? Ma io penso che fosse abbastanza logico attendersi una flessione, visto quanti veterani ci sono e quella che è la storia delle squadre di Messina. Al primo anno fa un po' fatica all'inizio, poi ingrana, poi ha un calo per risalire alla fine. Io credo che questo Real Madrid, ed è molto sorprendente, sia legato in maniera incredibile a un giocatore che all'inizio doveva essere più o meno un eccipiente, ovvero sia Sergio Llull. Con Llull, recuperato adesso, è un tipo di squadra. Senza, non ha nessuno che abbia le gambe di Llull, il tiro di Llull e la freschezza di Llull. Con Llull non è della categoria dell'Olympiacos, Panathinaikos, Barcellona, potrebbe essere della categoria di Siena, ma non ha il vissuto di Siena. Sentiamo domenica, Flavio, quando c'è già, prima abbiamo sentito Bonicioli, una partita da finale, una partita a spareggio, che a gennaio è abbastanza una rarità, Virtus Bologna e Virtus Roma, non male come quell'incrocio. Senz'altro. Grazie Flavio, a domenica, grazie anche a Flavio Suardi. A venerdì prossimo. Noi ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio dalle 5 alle 6, grazie a Franco Piantaneda per il lavoro in redazione, grazie a Pietro Lacorte in regia, domani.